alle 10 c'è qualcuno Gabbio? Sì, tu. Hola. Modulo metro fondo scala, cambio. Hola, la cipolla. Ora, attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Che è avanti? Ora? Ora, attenzione, 10, cambio. Su. Mi ha preso il gaccio a lui, eh? Che è avanti? Ora? Ciao, ciao, e beh. Cucca. Invece combinente. Sì, a fare rientrato, zona mare, c'era un tipo lì alla marina, due orate belle ha preso, è belle, ma belle veramente. Alla marina di Sorso? Sì, a lui, alla marina di Sorso. E lì si pesca bene, anche al settimo festino si pescava bene, perché lì c'è l'autostrada, quella che chiamano autostrada. C'è un canale che passa nel mare, c'è un'incanalatura dove passano le orate. Se tu riesci a lanciare almeno 150 metri, a portare la lenza a 150 metri, la bidi sempre. Ne ha preso una mio fratello, mezzo chilo. E poi questo qua ne ha preso due da... E sono state... fai un chilometro l'una, un chilometro sette. Cazzaga. A pescare siete andati? No, noi fare una passeggiata. E vabbè. Ne andava davvero una tescia, che quella più piccola va bene lo stesso. E ce n'è ancora di orate a casa, se vai ce n'è. Io mi sto prendendo una cosa, c'ho il tempo di andare, non ci sto andando, perché non mi dà la gana, Come si dice, a casa se... Eia, ti ricche. Ciao un attimo. Eia, se sto uscendo male, sto uscendo con l'inchette da base. No, sta facendo bene già, benissimo. Stamattina mattina mi ha mandato un messaggio a Antonio, a Bobo, ma ha detto, esci da dudaggio, a me, Ma tu cosa stai facendo? Pennine USB? Cioè, non ho capito. Che cosa stai facendo? Pennine USB? Pennine USB sto facendo, cioè? Cioè, le mettere le canzoni nelle pennine? Certo, Antonio devo mettere un po' di basi. Ah, ho capito. Ma basi solo, senza cantare? Ehi, per Antonio c'ha l'impianto karaoke, già capito. Come si dice? Già ne ho musica comunque, dai, già ne ho. Perché quando io riparo il computer c'è roba lento, ma la tengo, capito? Musica, basi karaoke, che te che ballacche. Ascolto, ma non ce l'hai più quella chat dove si cantava, dove aveva cantato anche Manuela e io, te lo ricordo? Però ti divertivi, dai, con quella lì ti divertivi. Prima, ma purtroppo non si può adesso, chi sei girusa. la vidaia. La verità non vola, fai un attimo già. Cavagava, lo so, purtroppo bisogna anche fare dei sacrifici quando si vuole bene una persona. Che è avanti? Aia, non riconosci la PTT. Aia, buonasera, il piacere che mi fa. Anche a me, trullala, però non hai riconosciuto la PTT. No, perché sei con un'altra apparecchia, anche la modulazione è diversa, sempre Gigi Vulcano, Claudio, sempre Gigi Vulcano oggi. Ehi, sempre dice la radio, bella la voce di Gigi Vulcano, mi piace, corposa, repotente. Ehi, sembravi lui, quando ha parlato piano piano sembravi lui. Ehi, va bene. Mi attizzano queste radio, oramai, mi attizzano, già va bene lo stesso. Certi segnali con questa radio allucinanti. Ma l'ultima che hai preso che cosa è, Claudio? È un patch di X, sono al buio, aspetta, metto gli occhiali. Sempre la base? Sempre, non ne voglio veicolari, sempre base. E ne vuole arrivare ancora. Aspetta che ti dico di X. Allora, questo è un patch pace DX2003B. Comunque il meglio non l'hai preso ancora, eh? Il Galaxy Saturn non l'hai ancora preso. Già, sto decidendo tra il Galaxy e il Simba. Sto decidendo, credimi che sto decidendo, perché il Galaxy, guarda, faccio una telefonata, me lo porto un'altra sera, te l'ho già detto. Però sto decidendo, perché c'è un amico del continente, un collezionista, che gli ho detto di procurarmi un Simba, che è grande come il Galaxy, un po' più alto, più ciccione le mani, ma il Galaxy è un pochino più largo. Però Simba, non so se lo conosci, è più alto o più ciccione. Molto molto bello, l'ho avuto, ma molto bella, è una radio eccezionale come ricetrasmettitore, come tutto, anche come bellezza. C'è un WFO grande dei canali come un HF, molto bello, molto molto bello. E non lo sta cercando, se non lo trova mi prendo il Galaxy, se no se lo trovo mi prendo il Simba, mi piace troppo. Ma quello che ha detto che deve andare alla strada Sassa di Olbia Tempio non l'hai preso? Oh già, mancava le due manopoli, c'aveva il vetrino, c'è un vetrino lungo lungo, c'erano tutti gli strumenti, era rotto, non so, mi devo mettere a riparare, io le radio le compro e voglio nuove, questo qua c'è nuovo, nuovo. Nuovo, nuovo, nuovo, capito? Le radio le voglio nuove. Nuove, nuove. Eh beh certo, certo. Se uno paga deve avere la roba come si deve, no, carraggio. E questo Simba come esce di modulazione? Perché il Galaxy lo conosci come esce e si adattano tutti i microfoni. Il Simba non lo so se tu lo conosci come modulazione. Io come marca lo conosco, l'ho sentito nominare diverse volte. Poi avevo il numero di questo collezionista che mi aveva mandato tutti gli apparati che aveva da vendere vintage, tutti in stazione base, tutti in vetrina, perché era diventato radioamatore, si doveva fare gli spazi, e io gli avevo comprato qualche cosa, gli avevo comprato, adesso non mi ricordo quale, Lafayette, Elsat, poi gli avevo comprato qualche altra cosa, ma poi sono usciti da casa, perché a me mi deve piacere proprio l'apparato, anche se esce bene, ma mi deve anche piacere. Vedi, il Galaxy c'ha tutti e due, mi piace e esce bene. Già, digita Simba, baracchino Simba, Simba base, adesso mi ricordo che sigla S, che per quello voglio prendere, perché esce molto molto bene. Io ne ho avuto due quando ero a casa di mia madre, ho avuto anche il Telsat, ho avuto il Pony, questo che ho adesso, ho avuto il Pace, non come questo, un altro modello, perché ne hanno fatto tanti, ne ho avuto, ma il Simba mi piaceva troppo. Non mi ricordo, si chiama SSM50 o SSM500, comunque baracchino Simba base digitale, e guardalo quanto è bello. Molto molto bello, esce molto molto bene, ma non bene, benissimo, molto molto molto bene. Con qualsiasi tipo di microfono ho abbinato il Tower più 2 da tavolo, quello celeste, ma era non vera Gamewood, che ripeto, sempre per la mia voce però, quindi è chiaro che usciva molto bene. E non me l'ha dato, va. Mi ha dato tanti altri baracchini, sempre anni 80, ma il Simba non me l'ha dato. Il Simba specifico, io ho messo CB, baracchino CB, Simba, stazione base. E non me l'ha dato. Mi ha dato tanti altri stazioni base, ma il Simba non c'è. Vabbè, dai, comunque già lo vedrò quando ti arriva, se te lo prendi. Va bene, Claudio, dai. E oggi è toccato a Linket. Io sto andando con il 294 delle Noit. Ieri avevo tutto il giorno il DAC. Adesso un po' più tardi facciamo andare un po' il Pony. Anche l'Inter che lo sto facendo andare. Ma hanno tutte la stessa modulazione, perché i microfoni sono uguali, capito? Sto aspettando a fare le connessioni a questo patch. Lì ci va proprio il microfono del Simba, quello originale, io il microfono della Perception, ecco. Perception Simba, bisogna digitare. Perception della Simba. Perché praticamente è fatto un particolare, capito? Ad esempio il microfono è tutto cromato in ferro, ma pesantissimo, E poi c'è il rivestimento tipo parquet, capito? Una cosa del genere, molto molto bello. Io ho già il microfono di quella radio, capito? Ecco perché voglio trovare la radio. Oia, oia, oia, Claudio, lo sto guardando, aspetta. Ah, hai visto? Già, non ti offendere, ma non c'è garage che tenga. È troppo bello, è troppo bello. Guarda, ce l'ha due serie, mia volta, due serie, perché hanno fatto la prima e la seconda serie. Bello, due strumenti, sì, sì, molto bello. Vi devo dire, Pearce Simpson, allora, perché come si ma non me lo danno. Sì, sì. Sì, io vedi, non l'ho ancora digitato, se no me lo metto su WhatsApp. Molto bello già, se lo vedi dal vivo, poi è enorme, è grande, molto ciccione, molto, una radio bella, bella corposa, è più stretta del Galaxy, più stretta, però è alta, un pochino più bassa del DAC, per farti capire, molto grande come radio. Adesso guarda, se ce n'è qualcuna me la compro, se ce n'è qualcuna in vini. Io ho guardato, ma non ne ho trovato, io ho mandato a questo collezionista di Milano, che ha lavorato un sacco di microfoni, tutte le serie dei Turner, eccetera, delle SBE, insomma, ha lavorato un po' di microfoni, mentre ci metteva la caccia, ma come lo voglio io, lui lo sa, io lo voglio nuovo, non li voglio di... per avere modesta già rimane dov'è, io queste che ho sono tutte funzionanti, tranne il Comstat, che non ce l'ha nessuno, questo è un Comstat 23, Mark 6, non è un Constant 25, è un Constant 23 della Fayette, con tutte le scritte, bello, nuovissimo, in buone condizioni. Ed è da dare una controllata perché non riceve. L'importante c'è ma non riceve. Quindi è da vedere se sono le valvole, adesso lo devo appena un po' di tempo, lo porto da Capri, perché ancora sono incasinato con mia moglie. Lo porto da Capri e già le mette mano lui, è l'unico che non funzionante, gli altri sono tutti funzionanti. Oh, Cla! Soia! E bene, capo, bene andava! Alla grande, era suo! Ah, andava, era, vabbè! Cappa! Luca, scusa se ti ho fatto aspettare, Claudio, ce ne sono tanti tipi, è il primo tipo quello che piace a me, tanto il Galaxy ce l'ho, se ci posso mettere anche l'altro, magari ne vendo un'altra, se c'è le basi invento quella. È bello, veramente, il primo mi piace un bel, gli altri non tanto, ma il primo è bello. La prima serie, ti sto dicendo, ne hanno fatto un po' di serie, la prima serie è quella che sto cercando io. Però stai attento, se lo prendi deve essere gente fidata, perché è un trasmettitore molto particolare, capito? Io mi sono affidato, te l'ho detto, a questo giovincello, a questo carissimo amico che sa i fatti suoi perché conosce altri collezionisti, capito? Quindi già me lo trova come lo voglio io. Non ne ho fretta, non c'è problema. Nessuna fretta, però deve arrivare immacolato. Allora io, da quel collezionista che erano radio mai usate, messe, prese, comprate e messe in vetrina, avevo comprato il Tokai che era super nuovo, non nuovo, super nuovo, e quello c'era Walter. E come altri apparati che avevo comprato, ne ho preso 3 o 4, un giorno è venuta una persona a casa, ha messo 1, 2, 3, 4, aiuto, togli tutti, dimmi quanto vuoi, e ce l'ha pigliato. Hai capito, Claudio? Avanti, Luca. Ti ho capito, a te. Cucca, avanti. Sto volando la borsa del ghiaccio a mia moglie. Già ti ho capito, ia. Però io così su internet non mi compro, capito? Perché già lo sai, l'esperienza di quell'amico comune, e sono arrivate parecchie non funzionanti, quindi non voglio rischiare. Questo qua era una persona seria, Claudio, mi ha mandato tutti gli apparecchi fotografati con i vari nomi, con le sigle eccetera eccetera, e mi ha mandato tutto l'elenco e io me l'ho stampato, e infatti cazzo c'era, guarda, tutti me li avrei presi quegli apparecchi, erano tutti uno più bello dell'altro, aveva molto gusto prendendo gli apparecchi, e ne ha preso diversi, ne aveva diversi, ha detto che doveva fare spazio perché doveva mettere anche la stazione radio amatoriale che era diventato un radioamatore e si stava cercando di fare qualche soldo per aumentare la stazione radioamatoriale, che quella lì non gli interessava più, malgrado li facesse male venderli quegli apparecchi, però li aveva tutti in vendita. No, vabbè, con la gente, anche io sono radioamatore, però non è che me ne può disfare di cose che vi piacciono. Ho fatto due basi, una è solo baracchini e l'altra è amatoriale. Deve avere lo spazio e anche per quello ci vuole spazio, non è che io ho questa stanza e voglio continuare, voglio investire. Adesso ne ho ordinato altre due, vediamo. Domani chiamo a Giovanni a vedere se ha qualcosa sotto mano, capito? Però questo Simba tu vedrai che già, prima o poi già lo trovo, ce l'avevo già, mi è che sono andato a vederlo, sono un debole giubricato, ho detto ma nuovo, sì, nuovissimo, vuole solo pulito, ho detto meno mai fare vigneria, ed è un motore di garraggio, poi sono andato ed era un motore di garraggio infatti. A me mi piace molto anche quello che c'aveva Mario Massa, adesso non mi ricordo come si chiama, quello lì era molto bello. Ma quello che gli avevo dato io, 7B? No, c'aveva un apparato CB base, non mi ricordo adesso come si chiama, era un bel bello. Non lo so, io sono arrivato in ritardo perché quello che avevo io l'avevo dato a Giovanni Camposanto e se l'ha venduto, io non lo sapevo, capito, non lo sapevo, se no quello era nuovo, anche perché l'avevo fatto avere io, quando ero a casa di mamma, lo usavo, quindi quando mi sono trasferito qua l'avevo dato a lui, e poi lui ce l'ha venduto, se no avrei preso quello, era nuovo, lo conoscevo. Ah, 25 watt diciamo con la radio, che pensi? In SSB, in AM mi sembra ne dia 12, c'ha una bellissima ricezione, una bella radio, e ce la troviamo piano piano, a forza di chiedere vedrai, già la trovo, bello anche le torpacce, questo è molto bello, nuovo, anzi Luca una settimana le mettiamo al microfono, vuoi comprare un altro microfono, un altro MP5, e facciamo le connessioni nuove, così anche lui c'ha il suo microfono. Buscati USA Delta, così cambi, se no se tutti i MP5, buscati USA Delta, USA Delta Master Fusion, non so quanto va bene. Come piace esteticamente già, è una cosa flessibile, ce l'ha Luca, se vogliamo lo faccio da lui già con le connessioni pronte, capito? Ma non mi piace, è una cosa flessibile, è meglio avere, magari prendo un più 4 non ne ho, c'ho tutto più 5, però sono belli tutti in fila, tutti nuovi, magari prendo un più 4, tanto a me per la, non me ne serve tonalità, capito? Se trovo, sto cercando anche un tunnel più 3, un tunnel più 3, ma non un tunnel più 3B, no, non ne voglio un tunnel più 3B, voglio un tunnel più 3 americano, un tunnel più 3 serio, capito? Mi va bene. Avanti, dai, per Natale ci facciamo regali adesso, dai, cosa ci compriamo? Cosa ci compriamo? Adesso da gennaio, viene poco roba al bagaglio per comprare, no. Già va bene quello che ho. Compro, vendo, scambio. Ti lamenti? No, io vado, compro, vendo. Guarda, solo la radio che ho venduto, mi hanno fatto circa 2000 euro, ho fatto il conto. E li sto mettendo tutti in queste radio qua. Vabbè, invece quello là ha fatto il contrario, si è venduto la radio CB, le basi CB per farsi la stazione radioamatoriale. Sì. Bonino mi aveva nuda, io ne avevo anche troppe roba amatoriale, siccome attività non ne faccio più, allora mi ho ottenuto l'indispensabile, le linee Kenwood e le VLU e basta. Il resto tutto barracchini, come dice qualcuno. Luca, bricicletta. Ecco, avanti. Buonasera a tutti. Buonasera lì, con chi abbiamo l'onore di parlare? Doppio rum da questa parte. Danilo. Ciao Dani, ben sentito, dai. C'è Claudio anche e Luca Maniconio. Oi Dani, Claudio, tutto a posto. Tutto ok, e tu? Bene. In settimana ti passo quel pezzo. Sì, non ti preoccupare, quando c'hai tempo me lo passi. Vediamo se c'è Luca. Attento, bicicletta. Aggiunti sempre Magnendi, ecco. Ci deve essere anche Luca Flipper in ascolto. Flipper, finito hai di travagliare. Indaffarato, Lascia rubare che costruire di roba buona. Buonasera a tutti, mi Antonio Bombolino, mi buonasera Bombolo. Cappa, buonasera mi. Oggi già appena adesso vi stavo sentendo, vi stavo ascoltando. Cappa. Va bene, buonasera, comunque ci siamo io, Luca Manicomio quando rientra, Claudio e Danilo, vai per chi vuoi, Antu. Papà, saluto a tutti, saluto Danilo, Claudio, Luca, tutta la ruota. Cappa. Io vedevo, lasciamo un attimino che devo fare roba a casa, sono appena arrivato acceso, dai, ci sentiamo dopo. Ehi Antu, qua siamo, dai, avanti Dani. Sì, ciao Antonio, ti ho lasciato un po' scorrere così ti sfogavi un pochino la tensione che avevi di attaccarti la radio. No, comunque Luca sta facendo una cosa bella adesso, Lo sente eccitato Antonio, ma cosa va? Niente. Cappa, dai, no, è che adesso stavo scendendo un attimino giù che è venuta gente, ci sentiamo dopo, ok? Ehi Antu, va bene, siamo qua, avanti Luca. Sì. Sta iniziando la partita, Cappa, c'è la Juve. Ah, fottidini, sulla che sono delle visori. D'amico, che affari che stai facendo col Galassi adesso? No, con 7000. Ma il Galassi non ce l'hai più? Sì, già ce l'ho sempre. Kappa. Già va bene questo qua. Che cosa c'ha? Microfono normale? Sì, c'ha l'originale. Se un amico mi risponde, forse mi piazzo l'MC60. Ah, ok. Bussa. Bussa. Allora siamo rimasti in due, anche Claudio è andato a cucciarsi la partita, anzi a paitarsi. Gli altri due, Luca, sono indaffarati, uno Magnendi e l'altro Travaglietti. Sono qua Dani, c'ho la TV qua, io non c'era problema, sono qua. Ah, quale ti davanti a te c'era il televisore? Ah, meglio così, dai, così non ti allontani di più. No, qua c'è tutto. Lascia la radio al completo, se manca la TV allora Simone. Vedo più forti, lì. Luca. Ui, come va? Tutto ok? Tutto ok. Vabbè Lu, finito l'hai. Ciao dai, quasi. Ci hanno dato la foto, quasi. Kappa, come fa questo microfono, Va bene. E come devi andare? Ce lo giuro. Sì, fino. E soprattutto avere un gavetto giuro, no? Tutti i sacrocchi. Vai, finisci, vai, a crocchi. Sole è tutto nero. Ogni volta che mi siedo mi devo toccare le marron glacé, tutto lieto, per carità, fanno cromante, intanto tu sei abituato a cromante. Mi stai dando un'idea. Luca, perché quando inneschi si sente un rumore di barattolo all'inizio? Cosa vuoi, un microfono con un barattolo? Ah, me, dillo a Claudio. Niente, metto barattolo. Senti quando va a schiacciare il PTT, senti che rumore fa. Quello è normale, tutti i microfoni, anche l'MC60 lo fa. Tutti, perché usa l'occhio, capito? Tutti lo fanno. No, quello che c'ha Luca, sembra un rumore di barattolo vuoto. Come va a innescare il PTT? Il rumore del relay dell'OC, non è niente. Prova Luca. Allora, questo è quello, il look, e questo è il PTT. Con look l'ho fatto, il PTT no, te ne sei accorto Dani? Sì. sì, già me ne sono accorto. Però lo senti il rumore di barattolo vuoto come fa? Bli bli bli. Si fa tom tom tom tom. È normale. Normale, normale, normale. Non è un difetto, è così. Tutti lo fanno. Quando vai a schiacciare l'occhio lo fanno tutti. Lo facciamo anche a me. Lo fa anche a me. E se allora intendi l'occhio dell'MC50, che vi vuole mantetta, ma è schicciallo. È un pochettoccio. Senti un pochino di olio. No, è proprio così la molla, capito? Perché è molto grande come tu anche Titti. Va bene, va bene. Avanti, Gianni. Sì, eh. Sì, vabbè. Una prerogativa di quei microfoni. Anche l'MC60 lo fa, quindi quando te lo metti preparati che lo fa anche il tuo, E questo com'è? Com'è questo? E cos'è questo? Com'è questo? È sempre uguale. Il lock. Questo è il lock. Va bene, lascia stare tu così, va bene. Non hai difetti, già stai uscendo bene. E questo è 60, visto? Non ti sei accorto della differenza? Sono simili. No, ma 60 esce bene con quello adattore. Lo sai, ne abbiamo già parlato. È che a volte esci con delle scariche, delle cose, ti si abbassa la modulazione, capito? No, questo è 60 intestato direttamente con l'attacco RG, capito? Dal microfono alla RG, non è adattatore questo. Questo è 60. Il tuo processore inserito? Sì, te lo tolgo, così sono senza processore. Sì, senza processore quasi scompare di radio. Con processore puoi andare anche bene, ma senza processore proprio sparisce. La differenza è lì, vedi, che non te l'ho detto. Mentre invece se attacchi il processore nell'SM20 si abbassa la modulazione, ma è comprensibile, qua sparisce il tutto. Allora, aspetta un attimo. Mike G, vabbè. Mike G è a 4, però. E lascialo a 4. Dunque l'SM20 c'ha più acuti e più forte come radio, no Dani? Sì, un pochino più forte esce. Aspetta, lo rimetto. Ma dipende sempre dalle timbri che mi danno. L'MC60 è una bomba, come lo porta Claudio, una bomba. No, già l'ho sentito quello di Claudio, l'MC60, cazzo. Sembra che gli abbia messo un amplificatore alla radio. Vabbè, c'è un microfono di 50 euro, no, va bene. Già va bene, anche questo, cioè è bello chiara chiara la voce. E soprattutto bella forte. È forte invece la radio, allora, uno quando lo intendi devi alzare la voce, invece usci, ti vai in TD e abbassi il volume. Quello è il problema, non vale ci intendi. A che cosa? Abbassare il volume. La lamiera. Quella che c'è all'interno, quella lamiera che c'è, di solito gliela tolgo e li metto il cotone per la capsula. Tranne il tuo e quello di Gigi Vulcano, questo è quello che mi hai fatto avere tu. E l'ho lasciato così com'è, ho cambiato solo il connettore. E gli altri invece sono, gli altri tre sono tutti normali. Originali come fabbrica l'ha fatto, così? Sì, tutti originali, non li ho toccati. E quelli nuovi difetti te ne stanno facendo o no? No, è un po' duro sempre a mettere il lock, ma già li sistemo piano piano uno a uno, adesso perché sono incasinato con mia moglie, già capito? Andata sta bene mia moglie, li prendo uno a uno e li tolgo quel violino, quelli sono morbidi. Hai visto il mio com'è? Anni. Eia. Ma qualcosa attaccato hai? Perché io ti sento saturo un po'. Saturo mi senti? Aspetta che abbasso la potenza. Io già che siamo a due passi, Ah, la potenza dell'apparecchio, già, non c'è né nulla, niente. Adesso sono con 3 watt, bene va. No, non mi piace. Non mi piace. Sempre saturo sono. Appena, amico, proprio pochissimo. Ehi. Ma stai usando adesso, Luca? L'SM20 adesso. Ma attacca il processore, falla andare, tanto cazzo ci fa vedere, ma non molto. 1, 2, 3, prova KK. Ma fai sentire la radio, cazzo, lo pare un microfono normale. parlate una volta però. Dai, mi sembrava un microfono normale. Io invece ti ho detto, sembravi che aveva, che avevi la radio in cameretta e stavi parlando da soggiorno. Perché spinge, spinge quando metto il compressore, capito, dalla radio. Così è un'altra cosa, Luca. Forse stavo parlando troppo vicino al microfono, guarda a vedere adesso se sono ancora saturo. No, è perfetto. Troppo vicino stavo parlando forse, dai. Perché questo qui è un amplificato, però non mi viene da parlare da molto lontano. Con l'altro parlavo vicino e non succedeva niente, con questo qua invece deve essere santo, ma guarda, così sto parlando da vicino e così da lontano, guarda. Beh, da lontano è più comprensibile anche. Beh, il restauro a te piace. Claudio non si pronuncia, deve essere che sta guardando qualche azione della partita, si è allontanato, va. Questo l'ha chiamato la moglie. Danilo, avanti, avanti. Aspettate che mia figlia mi ha detto che vuole parlare. Vai, parla, figlio, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Ciao piccolina, come ti chiami, ce lo dici? Come ti chiami? Come ti chiami? No, non glielo puoi dire. Sì che sono bravi questi qua, non sono moriti. Quanti anni c'ha, Danilo? 2 anni e 10 mesi. Piccolina ancora. Vabbè, non ce lo puoi dire il nome, quanti anni c'hai, ce lo dici? Marco, però sono una bambina. Dillo, 2 anni e 10 mesi, dillo. No, non a gana, si è vergognata. Al micropanico. E avanti, a farsi la doccia. Gappa, gappa. Claudio si deve essere assentato, ripeti tu Luca. Secondo me ne manca la luce ogni tanto. Oh, questo spalliero. No, te lo chiama la moglie, non è perché ha letto la moglie, a volte ha bisogno di roba e va a portare, a ghiaccio, questo e quell'altro. Bravo Gianni, bravo, tu hai fatto l'infermiere. Cazzo, tu sei il tonacchino, cosa ne sai tu di infermeria? Vero, purtroppo anch'io ho avuto i miei genitori, la capelli clara che quando sono sotto la flebba in casa noi così, tu io ya. Non so, aspetta, che l'avevo fatto via il ghiaccio, già l'avevo scivetto, riprendi già. E io sono stato dottore di me stesso, va. E quando mi hanno operato, mi sollevavo la gamba per coricarmi, me la sollevavo con l'altra, l'altra mi faceva la gruppa. Sì, purtroppo. Già, purtroppo è così. Vabbè. Santa raggia, ti Vabbè, tu già hai lavorato con il signor Cenzino. Non sa com'è quell'uomo, Che male di burro. Non lo so se lui sta facendo ancora servizio ambulanza. E lui è entrato molto dopo di me. Io c'ero tanti anni prima di lui. No, non lo sta più facendo, no? Ehi, Lambè. Avali si è messo bene in carriera, già passi gente. Solo lei dove vede chi sono in giro. Prima lui veniva dalle 6 di mattina, dalle 5 e mezza, sempre dormiva un po' che veniva dove facevamo subito ambulanza. C'era il notturno che smontava alle 7, perché lui era già lì, capito? Poi adesso ha problemi a una gamba perché ogni tanto esce con le stampelle, perché non so se hai notato che zuppica, però ogni tanto usa la stampella, adesso sta peggiorando. Sì, ce l'aveva da un meme con l'effetto lì di zuppicare. Poi gli era entrato un ferro nell'occhio, facendo, lui era carpentiere. È entrato un ferro nell'occhio, cavolo, e l'ha fatto per il giro. Va in pensione. Io sì che cosa faccio? Ho mangiato un zesci a bere tra mezz'ora di la sera, difficile che esca. Sembra che andava l'unico barbiere che apriva alle 5 di mattina, faccio i capelli, alle 5 di mattina. Zitta, adesso abbiamo lui. Non lo so che barbiere sia, però ci andava davvero, alle 5 di mattina lui si faceva i capelli. Chiappa. Vai, Gianni. Prima era diverso, Luca, veniva lì, le cene, le arrostite, era sempre con noi, ci aveva compagnia, capito? Sì. Ah, brava persona, si va a fare giù da voi, capito? Hai visto il restauro di quel microfono su Facebook? che sto finendo? No, non l'ho visto, non l'ha più visto. KK, non l'ho visto, che microfono è? È un MC50, guarda come l'ho trasformato. Ma è prima parte? Sì, già lo vedi appena apri Facebook. Eccomi qua. Sono arrivato. Anche questo è da restaurare un po' qua però, un po' da restaurare anche questo, non tanto però, solo che c'ha dei segni che purtroppo non si possono eliminare, capito? Però si può lucidare, dai. Ma cosa? Questo è SM20. Che cazzo? Ma che graffietto? Allora te ne faccio il microfono. Allora io quel microfono l'ho comprato nel 2015. Ho visto che qua nel gelato c'ha due segni di bruciature, forse qualche saldatore, forse qualcosa sicuramente che l'ha sciolto. Poi dietro lo stesso un pezzo sciolto, però di per sé per gli anni che ha ed è stato già diciamo di seconda o terza mano, comunque già basta una lucidata, guarda, una lucidata e ci torna nuovo nuovo. Peccato che è tutto nero. Cambia il colore, tu già riesci a fare queste cose, lo già vuoi. Quello che c'è è quasi vintage, lo già vuoi. È in buonissime condizioni, l'importante sia funzionante, io non l'ho mai aperto, mai toccato. No, quello l'ho preso in fiera io, sì certo, usato, non era nuovo, però va bene, è in buonissime condizioni. Sì, sì, sì, esatto, il vostro stile come ho fatto i pezzi del cruscotto di Danilo, te lo ricordi? Isolo la parte dove c'è la scritta e i canali però non funzionano i canali. Ok, però non me la fotti nulla. E isolo con la scritta, i pulsanti dei canali, e PTT e look e il resto mi sa che lo faccio così, ci sto pensando. I canali, quali canali? C'è i canali del microfono, ok, i canali. E che canali sono? I due pulsanti, i due tasti. Ah, sì. No, stai attento che quello c'ha il lock, poi a fianco al lock è PTT normale, se vai dall'altra parte fa lock lo stesso, eh? Già l'ho visto, sì. Già la Poidu, KK. Infatti a me mi... una volta mi ha giocato la portante ficciata, perché non stavo usando il lock, come gli altri, ho schiacciato e è rimasta incastrata di tubo, ma non si muove il coso. Allora se mi sono spostato per appena pulito l'altra parte l'ho disattivato. Non lo so se è così, beh. Io quelli che avevo non mi ricordo se era così. Non credo che sia così, magari c'è un piccolo difetto, boh. Allora, se lo tengo premuto a sinistra, vediamo un po'. E si blocca, vedi? Mentre a destra bisogna premere per non bloccarsi. Vicino al lock. Se va bene, PTT ne uso poco. Ne uso poco PTT, con tutti i microfoni, anche con questi. Io uso sempre il lock. È molto comodo. A me il PTT non mi piace. Perso, sì. È molto più forte del 60 però, cioè non è più a tutti. Aspetta un attimo, dai, visto che ci siamo, tanto non c'è nessuno, aumentando il making e portandolo a 9, vedi un po' KK. Un bel forte, inizia a sentirsi qualche vento, qualche rumore di casa. Sì, la stufa che è accesa, vabbè, l'ha aperta la radio. Che aumenta la velocità, vabbè, lo rimetto a 5, dai. Sì, metto a 5 già va bene. Sempre tu che dici io. Ma il coso non te l'hai preso da lì, capetto? No, questo amico c'ha la crepatrice elettricista, no? E me lo fa lui, ma adesso. Se te l'ho detto, ce l'ho anch'io la crepatrice più le spinette che l'avevo prese quando ho fatto il 60. Cazzata a ballo, un po' di pazienza ci vuole quando devi filare tutti i fili, capito? Solo lì è, però c'hanno le spinette, c'hanno le loro sedi per i fili. Una volta impostato all'inizio, boh, puoi spingere, entrano da soli, e lo metti nella crepatrice, tric, fate tutto e da. Che non è bello. Gianni, avanti. E cosa sei a fare, fa? Allora, l'ho preso io quel cavetto. Per darlo appunto a Luca col 20 e costa allora tra spedizione e tutto 34 o 39, non mi ricordo. Claudio, è aperto il link che ti ho mandato? No, perché non l'ho visto, lascialo aperto. Cioè, mi hai mandato, a me non mandare uccelloni, No, non te ne ho mandato uccelloni, è una radio. Qual è Cimba? Quello che piace a me. Quello che piace a me, cazzo, con PNG. Ah, ma io non lo dico una fretta, si lanciamo, se no già bide luci, non c'è problema. No, anche io, non ne prendo la gente così, te l'ho detto. Voglio vedere se lo trovo come dico io, se no no. Perché ce ne sono un bel circolazione, capito? Vabbè. Allora ci vediamo un pezzino con il cappuccio. Ma ti hai visto? Ah? Ma vai a te. C'è un bambino col cappuccio. Aspetta. Ocla. Qui. E se no è feo lo gelato dell'MC50. L'unica cosa vera dell'MC50 del gelato è dove c'è la capsula che è tutto cromato. Adesso devo provare a sverniciare quella parte lì, quella colorata appunto, per vedere se sotto è cromato anche il resto. Che tanto è feo. Sì, no, ma il mio guarda, io ti mando la foto, il mio c'ha le sue cromature, poi c'ha il suo, il tasto del PTT e del nocche nero, basta, però è nuovo. Allora Dani, che si dice? Aspetta, dimmi che c'avevo il volume basso. Ho detto che si dice. Che si dice? Le prima tesi così. No, non è cambiato niente. Vabbè, claro, alla fine quella commissione è spedita l'hai. Cosa? Se quella commissione, quella radio, l'hai già spedita. La settimana stessa. Doveva partire subito, invece mi ha detto di aspettare perché c'è stata anche lì un'alluvione e quindi non contentissimo. È arrivata 3 giorni. L'ho spedita lunedì, è arrivata il giovedì mattina praticamente, dai. Ma si è fatta anche in fretta. Io pensavo stesse tornando, poi Luca mi ha detto 3 giorni lavorativi. Quindi, contentissimo, l'ha già usata, mi sembra oggi siamo usciti in 40 metri e la stavo usando perché c'è il contest, non so di che cosa, e quindi la stavo usando. Quindi ce l'ha tutta quanta rifatta, riallineata? No, l'ho lasciata così, ancora non l'ho allineata. Gli ho solo fatto praticamente il, come si dice, di Mickey Game in più gli ho dato io, dai, e basta. E gliel'ho mandata così. E ho detto che andava bene. Per il momento va bene così, ho detto, dai. Ah. E poi già ce lo farà lui il lavoro che bisogna fare. Sì, ce l'ha fare tutto l'allineamento, darle una lineata, dai, con gli strumenti giusti. Analizzatori, controanalizzatori, balle poi, va. Ha detto già ce lo fa lui, però l'importante è che va bene. Buona ricezione, mi ha detto, infatti ci sono tutti, banda laterale, non gli frega niente la M. Ah, non gli frega niente della M. Ah, e noi siamo sempre in AM, e per quello è anche che non, magari non andavo. Ma è così, perché quella che c'ho io, me la butta scena l'AM a me, non è un picchio positivo in AM, è quella che c'ho io. Però la manda laterale va alla grande, la uso solo in HF, capito? Ah. Comunque, grazie, stavo dicendo la volta scorsa della temperatura della radio. Faccio, siccome mi sono messo anche la temperatura sul display, la temperatura sua sul display, è sempre fisso a metà, quando arrivare alla potenza alta, del picco alto di temperatura ne manca ancora 1, 2, 3 lineette. Non so se è normale, io quella radio non la conosco, non so se la conosce Luca, non lo so. Scende, sale, però non sale, non arriva neanche alla linea rossa. Alla linea rossa manco ci arriva. Oddio, c'è qualche sistema di protezione, non lo so. L'importante da lì, come ti ho detto, che la ventola funzioni e che sia ventilata la radio. Poi probabilmente è così dalla casa. Sicuramente. Perché calda è calda, ma la mano sopra già ce la tieni senza problemi. Non è bollente da non tenere manco la mano sopra. Ascolta, ma lo schiacci la portante e entra in funzione la ventola? Sì, parte. Parte, si sente proprio l'aria che sta entrando. Allora fregate, vuol dire che è così. Non l'ho mai avuta quella radio, capito? La conosco, ma non l'ho mai avuta. Quindi non so se è normale. Luca! No, allora, li avevano fatto ci sono delle modifiche per appunto per la ventola, per il raffreddamento da lì. E soprattutto appunto in banda laterale, in AM. Comunque se non sta scaldando molto, capito? Perché se no devi fare una ventola dietro. Che butta fuori, non che butta dentro, che butta fuori. No, ma la temperatura è... ce l'hai presente la temperatura come disegnato lì in questa radio? C'è C e poi c'è H, ed è sempre in fisso a metà. Ma quando arrivare alla stanghetta rossa, che è già surriscaldata, ce ne vogliono ancora tre tacchette. Questo si aumenta la velocità quando vado in trasmissione e poi si abbassa quando vado in ricezione. Sicuramente anche questa qua è così, solo che quando non parlo neanche me ne accorgo che sta girando. Adesso sta girando perché ci sto mettendo la mano sopra. Ma si sente l'aria che sta tirando. Probabilmente deve... mi sembra che avevamo fatto una sorta di velocità per girare più veloce, mi sembra. Capito? La ventola di quella radio. Stavo guardando e c'è da una serie in poi, non mi ricordo qual era la serie, che c'è una resistenza, tempo che pone quando sei in ricezione, la ventola gira lenta. Poi quando va in trasmissione aumenta la velocità. Ah già, qui c'è la mia radio, a me è pomelloni. Guarda che bello il manopolone del VFO, cazzo, quanto è bello, Ecco. Avanti, break. Ben ascoltati a tutti quelli che sono in ruota, Antonio quello da questa parte. Dammi un controllo veloce, là. Guarda i segnali come sono. Sì, quasi 9, 8, 8 e mezzo. E così invece, guarda la differenza? Santiago 5. Aspetta, sto accordando un attimo. Guarda così invece. 1, 2, 3, 2, 3. Accorda. Come sono adesso? Come sentivo? Accorda. Scusate, non volevo interrompere il QSO. Non ti preoccupare, siamo qua anche per questo, Anto. Avanti, Dani. Sì, io sento appena, però non riesco a capire quello che sta dicendo. Ma devo accordare. Accorda. Dani. Dimmi. Accorda. Sì, Antonio Gronde che ha problemi sicuramente di stazionare, sta accordando. Sicuramente. No, io ho sentito appena proprio un filino e poi poco fa ha detto accorda, però no, non è salito molto, neanche di radio. Ma è finito lei, Lupo, il microfono? Ehi, quasi. Devo verniciare i due tasti e il coperchio di sotto, appunto, che sotto è un po' arrugginito. Gappa, un secondo, mi sta chiamando mia moglie, riprendi Dani. Ma cos'è, cromato? Ho visto come l'ho fatto. Eia, sembra navigato, sembra che era più navigato. Non si vede bene, però ho pensato che fosse cromato. Clonato. Il coso che sembra levigato dalla vernice, capito? E comunque una cromatura ce l'ha. Sì, sotto era nero, capito quello. Solo che la vernice era tutta consumata. E allora un po' di sverniciatore è uscito così, poi l'ho lucidato un po' con la pasta abrasiva, però ancora è da finire. Ah, quindi non è che l'hai cromato tu? No, sotto è già così, è un peccato infatti, l'hanno fatto nero, dalla casa però, è sotto è bellissimo in effetti. Cavagava. E cos'era? In archivio quello lì? No, non l'ho preso da me. Ma te l'hanno mandato e non ti hanno soddisfatto, così? No, poi l'ho comprato, c'era un signore, lo stava vendendo 15 euro. Microfono più 3 gelati anche, mi ha dato. 15 euro, spese di spedizione compresi. Si è sbagliato subito. Microfono del genere, una volta restaurato, lo puoi rivendere a 70 euro tranquillamente. Vabbè. I gelati che cos'erano? Magno? Magnum è un acido ammazzato, infatti agito il calcio, non è che mi piace assai. Ma come se sei sciusi? allora. No, vabbè, due sono da sistemare, due gelati, perché devono avere i fili staccati dalla capsula. Però uno funziona benissimo. Ah, ma di che sono? Di che marocchi? Cosa? Vanno bene, si hanno una bella radio anche. Se io prendo la capsula dai microfoni che ho comprato dai cinesi, vanno bene. No, questi non sono capsule o gelati dal cinese, è dell'MC50 originale. Ah, ho capito. Faccio capire. Io devo comprarti per il karaoke, ma si sente molto bene. Ma sono dinamici, capito, per quello c'è l'equalizzatore che fa karaoke, perché il microfono è originale, è normale, capito, e poi l'equalizzatore che gli dà la forza. Vabbè, io ho risolto con la cassa amplificata, c'è radio, c'è tutto, l'ho pagato 85 euro, quello è bella. C'è tutto, si illumina, c'è una radio che se il muore al massimo vibra tutto, c'ha mi pare 1000 watt di uscita. Minchia, hai pizza. Vai da lì, che ti sto facendo quello schema. Me lo mi? Beh. Beh, Antu, finito hai? Mi ho finito di mangiare. Ha mangiato hai? Ma la merenda è fatto a cena? Eia. Merenda o cena? Ah, me l'ho regato un pochetto di poi, po. E lo... E mi ha mangiato isso. E già è buono. È salato. Già. Ia. No? Ho detto che quotazione hanno. E tu non hai capito cosa ti ho detto? Che praticamente io sono andato a vedere gli apparecchi, non sono in vendita quelli, ma penso che dalle 120 alle 150, qua. Oh, in simba? Oh, ti voglio a 200, Guido. Provo a vedere, dai, provo a chiedere quanto si valgono più o meno. Chiedi nello specifico, quanto vale il Precision Simba? Dammi la sigla, anzi adesso me la guardo io a vedere la sigla, se SSB50, quello lì è. Sì. Vabbè, lui, trovato lei quello schema. Sì, aspetta, te lo sto facendo. Mi stavate chiedendo qualcosa. Cosa tu? No, io sono qua, ma sto anche guardando la partita, dai. Gappa gappa, ah, che bello. Bello sta parecchio, continui. E si sento solo voi, ma non sento altri. Cioè, non sento... Gianni! Aspetta, sta guardando su internet una cosa per me. Ah, va bene, dai. C'è anche Danilo, c'è, dai, già siamo qua, c'è anche Luca. Sì, ya. Dani! Sì, dimmi tutto. Ehi, cappa, ma tu sei quello di Sant'Orsola, no? Se non mi ricordo male. Sì, ma non Sant'Orsola, sotto Sant'Orsola sono. Ah, cappa, vabbè, la zona è quella, dai. Sì, all'incirca sì, da. L'area di Sant'Orsola c'è quella. Cappa. Ora latte dolce, no? No, prima era latte dolce. Ah, ho capito, dai. Ehi, e qua arrivi forte. 9:20? Sì, qualche cosa di più, dai. Addirittura. Io non è che sia tanto lontano, no. Ma c'è liscio, Anto? L'ha fatto con Perlana. Quanto gli arrivi a Danilo? No, non siete vicini, Danilo. No, a me mi arriva 9.20. Io a lui non lo so, eh. Sì, un po' più di 9.20, da. Qua c'è sul più del 30, Danilo. 9.25, non so. Il mio segnale com'è lì? Qua mi segna 9.30. Proprio ufficio rimane 9.30. Invece poco fa ad Antonio mi saliva a 9.40 e sceso anche a 9.30. Quando attacca? Come è un attacca? Claudio, via. Ha trovato 1.20, se ti interessa. Quanto? Allora, 119.20 più 60,57 euro di spedizione dagli Stati Uniti. Tu a ti fidi già, a ti fidi tu a pigliare la luce dagli Stati Uniti? Non lo so, non so manco se funziona quando mi arriva, quello è il problema. Quello è il problema, è troppo lontano già, è troppo lontano. Certo, poi 60 euro di spedizione, vabbè che è pesante, è un bel pesante quella radio, Però dagli Stati Uniti, non sei stato almeno in Italia, l'avrei comprata oggi. Senza contata poi quando ti arriverà Dogana. Ma non mi fido così già. Se io di Dogana già ne so qualcosa. No, mi costa troppo e poi non sei sicuro se è funzionante, se è bella, se è nuova, capito? In Italia ci mi butti che stavolta piglio un aereo e vado e faccio lo capo. Abbiamo preso un'inculata in tre, da lì una volta io già mi ho salvato le maestrale. Con dei Galaxy, una cosa allucinante. Una cosa, tu mi hai visto la radio messa a bagno e tolta, così erano queste radio. Tutte quante ossidate. Completamente ossidate e rugginose la mia era. E cazzo, di così ero, vedete che tu di trovaglio ero, sei canto una gatto. Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Niente, abbiamo preso i soldi, cosa hai fatto? Tutto hai fatto. Ho fatto la denuncia e noi abbiamo trovati perché era una truffa, capito? Hanno messo la foto, nuova, di un Galaxy in vendita. Poi l'ha contattato Gianni e Salvatore. Allora mi ha detto, ti interessa, ne hanno tre. E prendiamoli tutte e tre. Ma tu devi vedere come sono arrivati queste radio, mi dillo già. Ci abbiamo preso 200 euro a testa, con microfono amplificato in regalo, MB più 5, oltre il microfono normale, avanti di magazzino, nuove. E invece era avanti di garraggio. Infatti era avanti di magazzino che si è allagato. Beh, alla fine ce l'avete dovuta buttare. A me non mi è arrivato proprio nulla, a me proprio niente, nemmeno arrivata mi è fatta. A Claudio è arrivata quella ruggita, a me non mi è arrivato nulla, Salvatore lo stesso. Salvatore, a me non ci è arrivato nulla, io sono andato alla polizia postale pure. E mi hanno detto che erano fregati anche i colleghi. Detto che sono organizzazioni molto vaste che si spostano da una nazionalità all'altra, che usano delle carte telefoniche per chiamarti e praticamente poi queste carte telefoniche non devono dare il nome né cognome, nulla, l'altra non la buttano via. Una volta che tu gli spedisci i soldi, buttano via la carta telefonica e scappano, prendono i soldi e scappano. Bastante. E a Claudio, cioè, ce l'hai dovuto buttare qua. Tu presenti, vai, un ammasso di ruggine, tu, ma non te cosa? Niente, manco a pezzi il ricambio. L'ho presa e niente, non mi ricordo che cosa era successo. Se l'avevo buttata via o l'avevo data a qualcuno, non mi ricordo. Un ammasso di ruggine era praticamente messa a bagno, perché quella, come appunto stava dicendo Gianni, sicuramente erano in qualche cantina, o era in qualche cantina, perché loro hanno detto che ne avevano tre, però loro due mi ricordo, sì, già, infatti, a voi non ve l'aveva mandata, a me me l'aveva mandata, e sicuramente era qualche cantina che si è allagata.